giornale radio del Friuli Venezia Giulia. Sanità a San Vito al Tagliamento, presidio di protesta davanti all'ospedale, le istanze del locale coordinamento, a Udine il convegno degli anestesisti sul futuro della professione. Cibo, carburante e bollette assorbono oltre metà delle entrate mensili delle famiglie, per la CGA possibile frenata delle spese per il Natale. Trasferta giapponese per il presidente della regione, l'assessore alle attività produttive, visita all'Expo e promozione delle eccellenze. Operazione antibracconaggio a Gradisca, rischia grosso un uomo che deteneva centinaia di volatili, anche di specie protette. Basket, Udine viaggia forte, Alibegovic e il suo profeta, la disamina del coach Vertemati dopo il successo a Verona. Calcio, Triestina in caduta libera, la nuova sconfitta interna è l'ennesimo segnale di una stagione difficile da raddrizzare. Le 12.31, ancora buona giornata da Giampaolo Mauro e Daniele Lettige. La sanità resta la voce più importante nel bilancio regionale. Nella prossima manovra i fondi per salute, assistenza e disabilità supereranno i 3,5 miliardi. Una cifra enorme che però ancora non riesce a soddisfare tutte le istanze del territorio. Non sempre è una questione di fondi, come per le richieste che arrivano da San Vito al Tagliamento, dove un coordinamento questa mattina ha messo in atto un presidio di protesta davanti all'ospedale. Sentiamo. Non demorde il coordinamento sanvitese della sanità pubblica. A un anno dalla chiusura completa del punto nascita, un nuovo presidio con un centinaio di persone è tornato sui temi della salute con il sostegno delle associazioni e delle categorie dei pensionati di CGL e CISL e UIL. Lunedì sera il Consiglio Comunale di San Vito al Tagliamento ospiterà l'assessore regionale Riccardo Riccardi. La maggioranza di centrosinistra gli proporrà una riapertura del punto nascita decentrato all'interno di un unico reparto che faccia capo all'ospedale di Pordenone, una sorta di via di mezzo rispetto alla situazione precedente. Lo ha annunciato il sindaco Alberto Bernava, che ha partecipato al presidio con il consigliere regionale democratico Nicola Conficoni. Su questa proposta è netta la chiusura del direttore generale Giuseppe Tonutti. Non esiste assolutamente, ci dice su nostra domanda, perché è una questione di sicurezza delle persone. Bisogna garantire un numero minimo di parti all'anno, dice. Non di meno, la speranza degli attivisti sanvitesi resta accesa considerando la chiusura della convenzione con il Policlinico San Giorgio di Pordenone prevista per la prossima estate. Anche su questo Tonutti è chiaro, la convenzione si chiude perché il nuovo ospedale sarà in grado di garantire gli oltre 1600 parti annui previsti. Infine, il coordinamento sanvitese fa notare con soddisfazione che è stata accolta una propria richiesta, l'apposizione di un cartello al CUP dell'ospedale che pubblicizza i modi per ottenere una visita nei tempi di priorità previsti quando l'azienda sanitaria propone date troppo in là. Secondo Tonutti, quei cartelli sono in realtà in tutti i CUP e le farmacie convenzionate e infatti il ricorso alla procedura è cresciuto tanto, solo nel pordenonese arrivano non meno di 500 richieste a settimana. Antonio Di Bartolomeo, TGR Friuli Venezia Giulia. Spostiamoci nell'area di Udine, dove questa mattina era in programma un convegno dell'Associazione degli Anestesisti, una figura della sanità che negli ultimi tempi è stata al centro di dibattiti per il numero degli specialisti. Ma oggi si è parlato anche delle nuove tecniche. E se eliminassimo completamente oppioidi ed effetti collaterali connessi, dipendenze incluse, dalle anestesie in sala operatoria? L'approccio rivoluzionario arriva dal Belgio, dove furono inventati gli oppioidi sintetici negli anni 60. A Gand, il professore Jan Müller dal 2009 ha iniziato a sperimentare una combinazione alternativa di altri farmaci, che peraltro costano meno, come la lidocaina, anestetico locale usato per esempio dai dentisti, o il magnesio. Risultato, pazienti che si risvegliano prima, possono andare a casa prima, ma non solo. È magnifico, ci dicono i pazienti. Non devo vomitare più dopo un'operazione, ho meno dolori, non mi sento raffreddato, non tremo più. Molti effetti collaterali degli oppioidi sono scomparsi. Una tecnica consolidata nei piccoli ospedali privati della Svizzera, ma usata anche da alcuni professionisti al convegno organizzato dal sindacato di categoria Aroi Emac. Il presidente regionale Alberto Peratoner sottolinea che casi di cronaca nera come quello di Roma impongono una riflessione sul ruolo e importanza della professione. L'anestesia è un complesso di scienza, tecnica e arte che è in continua evoluzione, deve essere fatta in maniera sicura, in maniera precisa e cucita sul paziente. Nonostante le difficoltà, la possibilità dal 2018 di assumere specializzandi ha parzialmente tamponato l'emorragia di anestesisti e anche grazie alle attività aggiuntive si riescono a mantenere i livelli di servizio. Siamo sotto di tra un 10 e un 20% di organici variabile nelle diverse aziende. Quest'anno finalmente c'è una ripresa, entrambe le scuole di specialità della regione di Udine e di Trieste hanno avuto la copertura quasi completa dei posti, quindi questo è un buon segno, probabilmente speriamo, di ripresa, anche di rinnamoramento della disciplina. Udine, Lillo Montalto Monella, TGR Friuli Venezia Giulia. Cibo, carburante e bollette, le spese obbligate da sostenere ogni mese assorbono oltre la metà delle spese totali delle famiglie residenti in Friuli Venezia Giulia. È quanto emerge da un'elaborazione della CGA di Mestre basata su dati Istat. In media, ogni nucleo familiare spende per queste voci 1.312 euro al mese, il 55,4% delle entrate complessive, un dato in linea con la media nazionale. Dopo il periodo del Covid e la crisi energetica del triennio 2020-2022, scrive la CGA, le spese obbligate si sono stabilizzate su soglie più alte a causa della fiammata dell'inflazione. Anche per questo e per la scelta sempre maggiore di anticipare i regali già a novembre, non è da escludere che gli acquisti di Natale subiscano una frenata rispetto a quanto avvenuto nel 2023, passando da 250 a 225 milioni di euro, il 10% in meno. Il presidente della regione Fedriga e l'assessore alle attività produttive Bini saranno la prossima settimana in Giappone per una visita di alcuni giorni che prevede tra l'altro sopralluogo al padiglione Italia dell'Expo a Kyoto in un itinerario che toccherà anche Tokyo e Osaka. Quello asiatico, sottolinea Fedriga, è un mercato dalle enormi potenzialità per il Friuli Venezia Giulia. Il Giappone in particolare va elevato a interlocutore di primissimo piano non solo sul versante economico ma diplomatico in un contesto geopolitico caratterizzato da forte instabilità e dal processo di ridefinizione delle filiere di produzione e approvvigionamento. Nostro compito, secondo Fedriga, è quindi farci conoscere e apprezzare sia quale controparte affidabile sia per le peculiarità che possiamo mettere a disposizione degli investitori esteri, il sistema portuale e logistico, la vocazione alla ricerca e all'innovazione, le agevolazioni fiscali e non ultima la strategicità geografica. L'ex vicario episcopale per il laicato e la cultura, Monsignor Ettore Malnati, che ha svolto per mezzo secolo la sua attività pastorale a Trieste, ha ricevuto questa mattina il premio Barcola 2024, che celebra chi porta con onore il nome della città. Per affrontare le nuove sfide, Trieste abbandoni gli antagonismi, superi le barriere, ritrovi la sinergia sociale. Ha ringraziato Trieste, don Ettore Malnati. Trieste, la città a cui Monsignor Malnati ha dedicato quasi 60 anni della sua vita. Per la sua appassionata, instancabile missione pastorale a favore della comunità triestina, il canonico onorario del capitolo di San Giusto e fondatore della comunità di Sione del gruppo ecumenico Giuliano ha ricevuto il premio Barcola, che tradizionalmente viene assegnato a persone, enti o associazioni che con il loro operato hanno onorato il nome di Trieste in Italia e nel mondo. Sono profondamente anche così riconoscente alla città, non pensavo di avere tutto questo, diciamo, riscontro. Io quello che ho fatto l'ho fatto col cuore, non sempre ovviamente in sintonia, ma cercando di sottolineare il fatto che quello che conta è la dignità della persona. Personaggio poliedrico, saggista, storico, giornalista, docente di teologia, don Ettore ha fatto ritorno nella sua terra d'origine, in Lombardia, ma continuerà a seguire le vicende triestine. C'è sempre stato un grande cuore a Trieste. Quello che ora mi sorprende è che si vuol far passare questa città, a causa delle situazioni dei migranti, come una città chiusa ed una città incapace di accogliere. No, non è stato mai così. Trieste ha sempre dato quello che poteva, ha sempre condiviso il pane. Lo diamo un consiglio o una piccola sferzata alla città? Beh, sferzate ne cacciapate tante. E un consiglio è questo: non litighiamo, buttiamo via il proverbio non se pol e rischiamo, perché è solo nel rischio che si costruisce, si va avanti. Trieste, Elisabetta Zaccolo, TGR, Friuli Venezia Giulia. L'associazione Medicina e Dignità organizza per oggi a Trieste l'incontro dal titolo Aspettando un sussulto di dignità per fare nuovamente il punto della situazione dell'accoglienza dei migranti in città assieme ai rappresentanti della rete di solidarietà. L'appuntamento è al Circolo della Stampa alle 16. L'associazione The Banfield, che a Trieste si occupa di assistenza agli anziani, ha organizzato una nuova serie di attività per persone affette da demenza, presenze al di sopra delle attese nel primo giorno di lavoro di gruppo. L'assistenza a persone con demenza o con malattia di Alzheimer è garantita per almeno l'80% dai familiari o dai cosiddetti caregiver, cioè persone che comunque dedicano moltissimo del proprio tempo in modo gratuito al servizio di chi soffre di Alzheimer o demenza. Casa Viola da oggi offre un nuovo servizio che amplia l'offerta a sostegno dei caregiver dalle 10 a mezzogiorno a Casa Viola, così i caregiver avranno 2 ore di tempo libero dai compiti di cura e le persone con disturbo neurocognitivo possono stare qui a Casa Viola facendo qualcosa di diverso dal solito con gli operatori specializzati che proporranno di volta in volta attività legate a terapie non farmacologiche. Torna poi da lunedì 25 novembre il mercatino di Natale. Le volontarie dell'Emporio della Solidarietà porteranno anche quest'anno le loro creazioni nell'atrio della Camera di Commercio, panettoni o pandori avvolti da borse fatte a mano da loro oppure i sacchetti di cioccolatini. Tutte le donazioni verranno destinate all'attività a domicilio dell'associazione. Trieste, Francesca Terranova, TGR Friuli Venezia Giulia. La notizia di cronaca: quasi 400 volatili e una decina di reti da Uccellagione sono stati sequestrati a Gradisca di Sonzo durante un'operazione di contrasto al bracconaggio realizzata dagli uomini della Guardia Forestale. È stato colto in flagranza un uomo che nella sua proprietà deteneva anche esemplari di specie protette. Più di 200 volatili dotati di anelli identificativi vivevano in condizioni incompatibili con la loro natura. Per questo motivo è stato richiesto anche l'intervento di un veterinario dell'azienda sanitaria, mentre circa 140 esemplari erano privi di anello identificativo e sono stati immediatamente liberati. Altri, infine, ora in custodia in un centro di recupero, presentavano anelli con evidenti segni di manipolazione. Molti esemplari hanno rivelato lesioni anche gravi e fratture, e quelli regolarmente inanellati riportavano danni al piumaggio tali da impedire il volo. Pesanti i reati ipotizzati a carico dell'indagato, dal furto all'uccellagione, dal maltrattamento di animali alla detenzione di fauna protetta e particolarmente protetta. Alle 12.42 il meteo, tempo cielo sereno su pianura e costa, poco nuvoloso in montagna. Queste le temperature registrate alle 11. A Trieste 9,5 gradi, a Gorizia e Udine 7, a Pordenone 5,5, a Tolmezzo e Forni di Sopra 4,5 gradi, a Piancavallo 2, a Tarvisio 0 gradi, a Sappada meno 1 grado, sul Monte Zoncolan meno 3 gradi, sul Monte Lussari meno 4, sulla costa a Grado 7 gradi e 5 decimi, a Lignano 7 gradi. Previsione a cura dell'ARPA: nelle prossime ore cielo sereno con temperature invernali, venti in genere deboli. Torna anche quest'anno il flash mob di Special Olympics Italia, nato per celebrare il 3 dicembre, giornata internazionale delle persone con disabilità. Alle 15 si esibirà per l'occasione anche il Team Friuli Venezia Giulia. Tutti i dettagli dal direttore regionale di Special Olympics, Giuliano Clinori. Special Olympics è una benemerita del CONI che tratta gli atleti con disabilità intellettiva. È l'unico, diciamo, ente rimasto all'interno del CONI con una disabilità intellettiva. Mentre nel CIP, il Comitato Italiano Paralimpico, ci sono le disabilità fisiche. Che cosa si celebra con il flash mob di oggi? Dove si svolgerà e quanti parteciperanno? Il flash mob sarà, oggi lo faremo a Città Fiera Udine, sarà in tutta Italia, ogni città ha scelto una location. Noi abbiamo scelto Città Fiera perché è una location dove ci sarà molta gente. Però si celebra, il 3 dicembre ci sarà la giornata mondiale della disabilità. Noi faremo dei video che verranno poi inglobati in un unico video con tutte le città d'Italia, che poi girerà per tutto il mondo, perché questo sarà la presentazione per i campionati mondiali di Special Olympics dei giochi invernali che si svolgeranno a Torino. Ci saranno oltre 4.000 atleti, circa 6.000 volontari e giornalisti da tutto il mondo. Siamo alla pagina dello sport. Il basket in Serie A2, convincente vittoria esterna di Udine che si impone 92-64 sul campo di Verona con 30 punti di capitan Ali Begovic e sale così al secondo posto in classifica. Sentiamo ora il commento dell'allenatore dei bianconeri Adriano Vertemati al termine del match. Siamo molto molto soddisfatti per come abbiamo giocato questa partita, per l'approccio soprattutto difensivo che abbiamo avuto. Chiaramente poi Iki all'inizio era molto caldo e ci ha permesso di prendere subito il controllo della gara, sul tabellone, dopodiché tutta la squadra è stata fortemente concentrata e motivata nel cercare di essere pronta a rimbalzo e nel muovere la palla attaccando prima gli show, poi i cambi difensivi. Credo che siamo stati molto bravi, noi eravamo senza Stefanelli, però abbiamo un roster molto lungo e questo mi lascia molto tranquillo. Sempre in A2 non giocherà in questo turno la Gesteco Cividale, come diverse altre squadre che hanno giocatori convocati in nazionale. 5 infatti le partite rinviate all'11 dicembre. I Ducali avrebbero dovuto fare a meno di Redivo, partito con l'Argentina, il quale sarà invece con i compagni a 100 nella giornata in programma il 1 dicembre. In A2 femminile gioca oggi il Futurosa Trieste, che affronterà in una gara di cartello la capolista Mantova. L'appuntamento è al Pala Rubini alle 19. La Dels Rudine giocherà domani pomeriggio a Ragusa. Per la pallavolo, in A1 femminile, la CDA Talmassons fa visita a una delle grandi di campionato, Novara. Friulana in crescita, lo ha dimostrato la partita contro Milano, ma stavolta c'è da mettere in conto anche il fattore campo. Si comincia alle 18. Trasferta piemontese anche per la Tinet Prata, nella Serie A2 maschile, che gioca a Cuneo alle 20. È uno scontro diretto fra le inseguitrici della Battistrada Brescia. Pallanuoto nel massimo campionato maschile, Trieste quinta con 10 punti, fa visita alla De Acker Bologna, che precede in classifica di una sola lunghezza. Si gioca alle 16:30. Calcio riprende con 3 anticipi il massimo campionato. Oggi Verona-Inter, Milan-Juventus e Parma-Atalanta. L'Udinese sarà di scena lunedì a Empoli e dopo le ultime sconfitte dovrà cercare di invertire la rotta facendo a meno di Pagero. L'argentino si è infortunato a un ginocchio e dovrà restare ai box per qualche settimana. L'allenatore Runiec ha ancora 2 giorni per riconfigurare il centrocampo. E in Serie C la Triestina è in caduta libera. Ieri a Rocco l'ennesima sconfitta di una stagione in cui gli alabardati non riescono a invertire la rotta. La squadra di Clotet fa la partita, ma incassa a una manciata di minuti dalla fine il gol decisivo del Renate. Ci sono un islandese, 2 olandesi, un caraibico, un francese, un portoghese, un finlandese e un haitiano, allenati da un catalano che 2 settimane fa ha messo le mani addosso a un lettone. Sembra l'inizio di una barzelletta, ma non fa ridere i tifosi della Triestina, sempre più desolatamente in fondo alla Serie C, dopo la sconfitta interna contro Renate. Terza di fila, 5 punti in classifica, un gol segnato al 94esimo, nelle ultime 8 partite, nonostante il budget, tra i più ricchi della categoria. In un Rocco deserto, senza nemmeno gli abbonati, e con il campo in condizioni disastrose nonostante il milione di denaro pubblico speso per rifare il prato, gli alabardati non giocano nemmeno male. Nel primo tempo controllano la palla e vanno almeno al tiro, anche se la mira di Vicario, nazionale di Curaçao, è quella che è per almeno 2 volte. Nella ripresa l'asse D'Urso Olivieri va vicino alla rete, ma sono imprecise anche le conclusioni da lontano di Vallocchi e di Johnson. Il copione sembra scritto, il Renate, che non vinceva dal 4 ottobre, si difende con le unghie e nell'ultimo quarto d'ora inserisce la seconda punta. Struna salva sulla linea la prima chance ospite, poi all'84esimo il colpo che decide la partita, consueti svarioni alabardati in area e Vassallo che da lontano trova un eurogol. Non è la prima volta che la Triestina prende gol spettacolari, anche se stavolta il portiere Ross appare in ritardo. La reazione c'è, dentro Vertainen, autore di un terzo dei gol alabardati in stagione, 3 e misteriosamente in panchina, e Olivieri si conquista una punizione dal limite a tempo scaduto. Esecuzione perfetta, ma il pallone colpisce l'incrocio dei pali, per l'ennesima beffa. Trieste, Andrea Saule, TGR Friuli Venezia Giulia. C'è una notizia di sci, Coppa del Mondo femminile, Lara Della Mea è decima dopo la prima manche di Coppa appunto di slalom a Görgl. E non perdete domattina l'appuntamento con le nostre rubriche. Alla radio, subito dopo la prima edizione del GR regionale, andrà in onda Vita nei Campi. Ecco il menù. Vita nei Campi, il settimanale radiofonico di agricoltura della nostra redazione, non dalla domenica alle 8:50 su Radio 1 Rai. Domani in apertura la produzione dei molluschi in Friuli Venezia Giulia al centro di nuove crisi produttive. A seguire la storia di Angelo Floramo dipinge un affresco, anche psicologico, della cantina delle case contadine. Nella rubrica delle macchine agricoltura irrompe il trattore, momento rivoluzionario per il lavoro nei campi. E ancora, assaggio radiofonico per il friulano, uno dei vini portabandiera del vigneto chiamato Friuli, dalla rubrica delle conserve, un'ottima idea per un gradito regalo natalizio, la giardiniera, e parlando di composizioni floreali in questo periodo non si può tralasciare la coreografica brassica ornamentale. In conclusione, andamento dei mercati agricoli, le previsioni del tempo, il proverbio friulano. Appuntamento domani alle 8.50 su Radio 1 Rai con Vita nei Campi. Udine, Armando Mucchino, TGR Friuli Venezia Giulia. E in televisione alle 11.25 su Rai 3, sempre domani, trasmetteremo la nuova puntata di Est Ovest, la rubrica diffusione nazionale realizzata dalla nostra redazione. Ecco la scaletta. Le case popolari a Vienna, una progettazione urbanistica che aiuta l'economia e garantisce una buona qualità della vita per le persone. I migranti sulla rotta balcanica, il lavoro dei volontari italiani a favore dei minori non accompagnati in Bosnia ed Erzegovina. La Croazia è il doloroso ricordo della guerra, un trauma che condiziona ancora la politica e la società. La scrittrice Sasha Vasiliuk, Il vento è un impostore, racconta il ripetersi ciclico della violenza nella storia ucraina. A San Marzano in Puglia vive la più grande comunità Arbresh d'Italia, il legame dei giovani alla cultura, alla lingua e alla musica degli avi. Tutto questo a Est Ovest, domenica alle 11 su Rai 3. Edizione redatta e condotta da Daniele Lettig e Giampaolo Mauro, coordinamento tecnico di Roberto Cavallari e Mauro Ciccarelli, ha collaborato in redazione Laura Sarasini. 12:51 minuti, la prossima edizione alle 14:30. Grazie per la vostra attenzione e buon pomeriggio. Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.